Bravo! Ta-tan. Insomma, praticamente no. Oh, per carità. Ma nati che alla fine è tenuta con tu. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ciao, sono Fiorello e oggi non vi farò ridere. Come al solito. Parlerò di qualcosa che può aprire un futuro ai giovani. Finalmente qualcuno si è accorto di loro. Si chiama apprendistato. Il nuovo apprendistato incentiva le imprese ad aprirsi ai giovani, che così apprendono, guadagnano e intanto si diplomano, e se sono già laureati si specializzano. Come te che sei laureato in... Sì, sono laureato in... Vabbè, 110 e lode ho preso. Il nuovo apprendistato apre. Eh sì, ce l'hanno presentato così con un testimonial non da poco, Fiorello. Questa era una recente campagna pubblicitaria che ha fatto seguito alla riforma Fornero, che pure è intervenuta sull'apprendistato. Però il contratto d'apprendistato esiste da molto tempo, ma ultimamente si è cercato di rilanciarlo con iniziative di comunicazione, ma anche con tante riforme. L'ultimo pacchetto è arrivato proprio la settimana scorsa. Le domande però restano: incentiva le imprese ad assumere o no? Aiuta i giovani ad entrare nel mondo del lavoro e a stabilizzarsi nel mondo del lavoro? Ed è proprio quello che vogliamo sapere oggi. Vogliamo sapere innanzitutto da voi. 800 24 00 24, superate la barriera rosa di Cuore Denari. Oggi iniziamo parlando di lavoro e di contratto di apprendistato in particolare, quindi raccontateci se siete assunti con questo contratto, se vi convince, se lo capite, se ve l'hanno proposto, se ve l'hanno promesso ma poi non hanno mantenuto la promessa, se siete soddisfatti o vi sentite un po' sfruttati. Chiamateci o scriveteci anche al 349-238-6666. Se siete imprenditori e questo strumento lo usate o vorreste usarlo, noi questa mattina avremo anche delle testimonianze di imprenditori. Ha più opportunità o più criticità? Ne parliamo questa mattina con il nostro consulente del lavoro, Alessandro Rotaporta, che è pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno. Grazie dell'invito. Eccoci qua. Allora, la Camera ha dato il via proprio da pochi giorni, via libera definitivo al decreto lavoro. Ci sono delle novità per il contratto di apprendistato e non solo, ce ne sono molte altre, ma noi questa mattina faremo un focus su questo. È molto importante questo contratto, Rotaporta. Intanto le chiedo un giudizio sulle novità arrivate la settimana scorsa. Questo contratto mi sembra sia stato semplificato, è così? Ma sì, partiamo da un aspetto che forse molte volte anche noi operatori tendiamo a dimenticarci. Il contratto di apprendistato è un contratto di notevole importanza perché riveste un interesse che non è un interesse soltanto per le parti che vanno a stipularlo, quindi il datore di lavoro e il lavoratore, ma ha proprio una finalità che la norma gli ha attribuito, che è una finalità pubblicistica, ossia quello di accrescere il livello di formazione dei giovani che entrano nel mondo del lavoro e quindi di aumentare anche l'occupabilità. Questo è lo spirito del contratto di apprendistato e di recente fa anche parte di quel pacchetto di strumenti con cui far funzionare la garanzia giovani, ossia quel progetto lanciato dall'Unione Europea per appunto spingere l'occupazione giovanile. Il decreto 34 che lei citava poc'anzi, che è stato appunto convertito in legge la scorsa settimana, dà alcune linee di semplificazione di questo contratto, sono alcuni interventi che dovrebbero spingere ulteriormente a facilitare questo tipo di assunzioni, però purtroppo parliamo di un contratto dove gli interventi sono stati molteplici, negli ultimi anni, quindi questo effetto di semplificazione poi alla fine si è un po' perso per strada. E soprattutto c'è un ruolo delle regioni che stenta a decollare, poi magari avremo modo di approfondire questo aspetto nel corso della trasmissione. Sì, oggi proprio avremo modo di approfondire, di capire bene tutte le dinamiche che ci sono nel mondo del lavoro, e concentrandoci naturalmente sull'apprendistato lo stiamo facendo da uno studio nuovo, vero Debra? Esatto, dobbiamo perché fare un brindisi. Ecco, noi siamo nello studio grande, ugualmente grande come quello, certo, che adesso, da cui trasmettevamo, ma devo dire più bello. Esatto, Laura Vanossi adesso ci immortalerà in questa nuova, in questo nuovo contesto. Ma non c'è solamente naturalmente questa novità da segnalare, ma soprattutto l'evento che il Sole 24 Ore dedica oggi nella nostra sede all'analisi e al dibattito sulla riforma del mercato del lavoro, anche alla luce delle novità introdotte dal governo. E quindi vi invitiamo a chiamarci, a restare con noi, 800 24 00 24 per parlare con il nostro esperto e per raccontarci soprattutto la vostra esperienza, per farvi dare una mano, un'indicazione. Allora, questa mattina all'evento del Sole 24 Ore Tutto Lavoro è intervenuto anche il ministro del lavoro in persona, Giuliano Poletti. È pronto il contributo, lo ha portato proprio pochi istanti fa la nostra Anna Marino, e tra le tante domande che gli ha rivolto c'è anche questa sull'apprendistato. Sentiamolo. Non era ancora l'intervista di Anna Marino, magari se abbiamo modo vi proporremo anche questa. Questo era appunto un estratto dal suo intervento di questa mattina nella tavola rotonda moderata da Maria Carla De Cesari. Che commento fa Rota Porta sulle parole del ministro? Peraltro, come verrà monitorata l'applicazione del nuovo contratto di apprendistato? Allora, guardi, l'intenzione le parole del ministro sono lodevoli, nel senso che, come dicevo prima, l'intento del legislatore è proprio quello di applicare delle modifiche che vadano a rendere più agevole l'instaurazione di questo tipo di contratti. Poi tra il dire e il fare purtroppo il passo è lungo. Perché è lungo? Perché la disciplina dell'apprendistato coinvolge parecchi attori, ci sono i contratti collettivi nazionali, c'è una normativa regionale che si interseca con quella nazionale, e quindi si creano dei piani che devono intersecarsi tra di loro e che molte volte creano delle difficoltà. Quindi effettivamente il decreto 34 ha portato qualche modifica in senso positivo, ad esempio un piano formativo più snello, più sintetico, che è quello dove devono trovare spazio le regole di tutti gli aspetti formativi, che è poi il fulcro di questa tipologia contrattuale. Ad esempio ha semplificato anche il discorso dell'attivazione regionale dei percorsi formativi, però ripeto, sono delle modifiche che poi vanno testate sul campo. Perché? Perché ad esempio sul piano formativo i contratti collettivi nazionali si dovranno adeguare a quelle che sono le linee guida che detta il decreto 34, quindi dovranno recepire queste semplificazioni, per cui ovviamente questo piano sintetico oggi non è disponibile se non in una versione fai da te che può approntare per proprio conto il datore di lavoro. Sulla parte della formazione regionale, anche qui le regioni dovranno adeguare le proprie procedure, quindi vedete come cioè l'applicazione pratica poi effettivamente non sia così agevole. Immediato, certo. Infatti Rota Porta lei scriveva proprio sul Sole, tra i nodi da sciogliere c'era appunto il fatto che le regioni sono in ritardo, devono ancora recepire le linee guida varate febbraio scorso, quindi bisogna fare una, come dicevo prima, le modifiche sono state molteplici a partire dal 2011 con l'emanazione del testo unico, poi è intervenuta la riforma Fornero, l'anno scorso è intervenuto il governo Letta con il decreto legge 76, il decreto Giovannini del settembre scorso, adesso il decreto 34, quindi ormai c'è un po' la moda che appena un governo si insedia fa una nuova riforma del lavoro, però cioè, purtroppo non bastano queste modifiche continue, che poi necessitano di un adeguamento delle parti che agiscono sul contratto. Vi faccio un esempio, ci sono alcuni comparti dei contratti nazionali che devono ancora adeguarsi alle regole del testo unico del 2011, quindi sono passati 3 anni e non c'è ancora stato un adeguamento a quei principi, quindi immaginiamo adesso le regioni dovranno nuovamente adeguarsi a queste procedure, quindi molte volte non è magari colpa della singola istituzione, ma è la colpa di un sistema che ha creato questi meccanismi dove ogni volta ci si deve adattare, quindi anche i cambiamenti continui, seppure nello spirito positivo, poi alla fine creano un effetto complicazione anziché semplificazione. Intanto però le aziende naturalmente si armano di tutta la buona volontà possibile, questi contratti di apprendistato, cercano di stipularli appunto per inserire nelle aziende questi ragazzi. Vorrei sentire subito se Nicoletta è d'accordo la testimonianza di Davide della provincia di Frosinone, il nostro primo ascoltatore di oggi. Davide, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. La mia esperienza non è strettamente pertinente all'apprendistato, dato che poi non è questo il contratto col quale fui assunto, ma penso che sia comunque una esperienza, un aneddoto penso particolare da raccontare, credo inserito bene nel vostro contesto, sì. Dato che nella mia esperienza io fui assunto il mio lavoro era ed è ancora oggi il responsabile di una sede territoriale di un'associazione di categoria, penso si possa dire la CNA di Frosinone, e ricordo che questo strano tutoraggio per una vicissitudini particolare, allora la persona che mi precedeva nell'incarico e di cui avrei preso il posto sarebbe stato affidato ad altro, seppur sempre nell'ambito del nostro sistema, per cui non mi poté realmente accompagnare nei giorni e nei mesi iniziali, che sono poi sempre cruciali quando in qualche modo si avvia un lavoro, tante novità, poi tra l'altro era il mio primo lavoro, quindi tanti timori, in qualche modo dubbi, e però questa persona in poche ore, io la incontrai proprio mentre stava facendo quasi i bagagli, cambiando, mettendo le cose nel suo scatolone per passare agli altri incarichi che avrebbe assunto, e lui in quel poco tempo mi trasferì in qualche modo delle nozioni, ma non tanto tecniche ovviamente, perché il tempo non giocava a nostro favore, ma soprattutto nello spirito che avrei dovuto mettere nel mio lavoro da allora in avanti, e quindi in qualche modo mi spaventò anche un po', mi disse che avrei dovuto probabilmente rinunciare al mio tempo, buona parte del mio tempo libero, alla mia concetto di... Va bene, Davide, abbiamo capito, comunque insomma un grande esempio, anche se è stato con lei poco, una persona evidentemente di grande autorevolezza, lei è molto pronto a recepire anche quelle poche indicazioni che ha ricevuto, per cui questo tutoraggio, anche se breve, Nicoletta, è stato estremamente efficace. Andiamo a Diego, che ci chiama dalla provincia di Ancona. Andiamo a Diego. Diego, buongiorno. Un'esperienza da imprenditore, intanto. Sì, io sono un imprenditore della zona di Fabriano, nelle Marche. Giochiamo a casa. Giochiamo quasi a casa questa mattina. In quale settore, Diego? Noi siamo un'azienda che si occupa di chimica per l'edilizia, però interpretiamo l'edilizia in chiave green, quindi siamo un'azienda della green economy. Benissimo, quindi insomma in questo momento un settore in grande evoluzione, immagino. Quanti apprendisti nella sua azienda, Diego? Ma in questo momento noi abbiamo circa 8 apprendisti su 35 unità lavorative. E gli 8 apprendisti che abbiamo, quindi poco più del 20%, sono praticamente quasi tutto personale che è addetto alla vendita, al customer care e alla ricerca e sviluppo. Nella realtà abbiamo soltanto una unità che si occupa di produzione, che è un operatore del reparto produzione. È un contratto complesso da applicare, Diego, visto il ruolo anche che rivestono le regioni, appunto hanno un ruolo attivo naturalmente in questo contesto. Lei che cosa ci può raccontare da questo punto di vista? Ma noi 10 anni fa abbiamo scelto questo contratto come lo strumento principale per inserire delle figure all'interno della nostra azienda. Devo dire che negli anni qualcosa è migliorato. All'inizio c'erano 120 ore di formazione trasversale e di base, che era tutta in mano praticamente alla provincia, praticamente tutta in mano alle regioni, e che veniva spesso vissuta in maniera inutile dallo stesso apprendista che andava, perché le classi erano eterogenee, perché c'era un approccio che era estremamente noioso proprio in termini di formazione. Oggi invece questa parte è stata molto alleggerita, noi pensi che delle unità che abbiamo praticamente ben il 60% della nostra forza lavorativa è entrata con un contratto di apprendistato professionale. Quindi siete riusciti a stabilizzarli poi più o meno tutti nel tempo? Abbiamo stabilizzato la stragrandissima maggioranza, quasi tutti praticamente sono stati stabilizzati. 8 apprendisti su 35 lavoratori, ma chiedevo al nostro esperto a Rotaporta, c'è un tetto? Cioè è una buona percentuale 8 su 35, no? Sì, allora un tetto nell'ingresso, sì, ci sono dei tetti che sono diversificati a seconda dei settori. La regola generale è che il numero degli apprendisti non possa, ogni 3 apprendisti ci debbano essere almeno 2 lavoratori qualificati o specializzati in azienda. Poi ci sono delle regole diverse per quanto riguarda le aziende più piccole e le aziende del comparto artigiano, per cui diciamo che le percentuali sono molto ampie, quindi la possibilità di inserire apprendisti in azienda è notevole. Spenderei 2 parole di elogio al signor Diego, perché veramente cioè, è anche un problema, se vogliamo, rispetto alle considerazioni che facevo prima di cultura, nel senso che molte volte l'azienda ragiona soltanto in termini di incentivi, però l'aspetto formativo, come dicevo prima, è quello che un po' deve guidare la scelta di assumere un apprendista, e anche da parte dei giovani molto spesso è un contratto che dal punto di vista chiamiamolo psicologico viene snobbato, no? Come un contratto di serie B, e invece ha tutte le tutele ormai come contratto di lavoro a tempo indeterminato. Anche perché, quindi, come si suol dire, non si nasce imparati. Brava. No? Ecco, no? Mi sembra forse banale, ma mi pare che possa essere questa mattina il proverbio assolutamente che possa fare da filo rosso per tutta la nostra trasmissione. E non lo so, tu Nicoletta per esempio assolutamente, sei nata quando eravamo giornalista autrice, no? Quando eravamo più giovani i genitori dicevano ringrazia che ti insegna, ringrazia che ti tiene, invece come dici tu adesso. Io ho degli forse esempi molto molto importanti per quello che riguarda il mio percorso professionale. Sentiamo se è così anche per Tommaso da Terni all'800240024. Tommaso, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Vedi che oggi il centro Italia va alla grandissima. Io volevo solamente fare il punto. Io sono entrato da ragazzino a 14 anni a lavorare, fare il tornitore, fare il modellista di stampi per fonderie. E poi quando sono andato in pensione ho trovato i contributi sversati. Per tutto il periodo in cui si faceva l'apprendistato, aveva i contributi garantiti. Certo. E la paga non era eccezionale, ti davano qualche soldo quando si ricordavano. Ecco, però quando si ricordavano è bella. Però insomma. Io li ringraziavo perché vicino a un operaio specializzato mettevano sempre un ragazzo che imparava il mestiere. Anche nelle botteghe si diceva, no, Tommaso, il ragazzo di bottega. Ma noi eravamo un po' più dei ragazzi in bottega, perché ci trattavano in un modo non molto bene, perché alle 1, quando si faceva l'intervallo, dovevi andargli a prendere l'acqua calda, però il mestiere te lo insegnavano, non ti nascondevano niente. E infatti lo spirito, diciamo, di questo. E ti incentivavano anche a studiare. Ecco, lo spirito di questo contratto d'altronde è questo, anche se oggi qualche volta da qualche azienda magari viene visto un po' come un onere un po' difficile da sostenere. E adesso noi? Sì. Sai che cosa abbiamo? Sì, perché anche in questo studio l'orologio lo tengo sotto controllo io, perché è girato dalla mia parte. Voilà, andiamo ai mercati. Cuore e denari. Finocchiaro. Aumarendo. Chi dovresti essere? Ma come, non mi riconosci? No. Sono Fabris. Fabris? Un po' dimagrito, un po' stempiato, ma sono Fabris. Primo banco a destra. Ma non ci provo, tu ci hai avuto un crollo. E dai, non esagerare, Sono anche passati 15 anni, Oh, eppure per me sono passati 15 anni, te. Ma lo vedi come sto? Guarda che robetta. Sì, io sto in forma smaglianta, Ma te? Tu sei sempre lo stesso. Non sei cambiato per niente. siamo tornati insieme, parliamo di apprendistato, di un apprendista e di un tutor. Anche tra i compagni di scuola ci sono delle ricette che dicono che il tutor più efficace è proprio il compagno di banco, quello che non solo ci faceva magari copiare i compiti, magari ci aiutava anche a capire un po' la matematica, o per i maschi a giocare a pallone. In effetti stavo riflettendo insieme a Deborah nel preparare questa puntata che, anche senza saperlo, in molti passaggi della nostra vita noi ci siamo trovati anche senza contratto, senza che ci fosse scritto, in un progetto formativo. C'erano due persone, uno con la funzione di tutor e uno con quella di apprendista. Provate a pensarci anche voi. Noi potremmo raccontare molti passaggi della nostra vita come se fossero stati passaggi di un apprendistato. Allora, la domandona di oggi, naturalmente nell'attesa delle vostre domande che vi permetteranno di capire di più dell'apprendistato e di raccontarci anche come lo state vivendo nell'azienda, la domanda di oggi, un po' trasversale, è: chi vi ha fatto da tutor e vi ha permesso di diventare buoni apprendisti, anche naturalmente fuori dell'azienda? E a vostra volta, di chi siete stati tutor in questa forma di apprendistato che è quella che caratterizza molte delle nostre relazioni? 800 24 00 24, citato il compagno di banco, però potrebbe essere stato il vostro tutor anche un allenatore, un insegnante, un vostro amico, il capo scout, insomma non è che posso dirveli tutti io, iniziate a chiamare, a scriverci, a raccontarci soprattutto qual è stato l'insegnamento del vostro tutor che vi portate nel cuore. C'è quella forma di massima no? Che regola un po' il nostro modo di prendere la vita. L'ascoltatore no? Che ci ha raccontato la sua esperienza in precedenza addirittura ha detto che appunto il suo tutor gli ha fatto un tutoraggio estremamente breve ma che è stato molto efficace. Anche quella è stata un'esperienza sicuramente interessante. Poi ai nostri ascoltatori ricordiamo che possono continuare a chiamarci, a scriverci anche per raccontarci se lavorate con il contratto di apprendistato o se assumete o vorreste assumere con questo contratto e alcuni aspetti non vi sono chiari. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta, in alternativa scriveteci al 349 238 6666. Con noi questa mattina il consulente del lavoro Alessandro Rotaporta, al quale faccio ascoltare la testimonianza di Giulia da Bergamo, che è un'apprendista di ricerca e ricercatrice presso l'ADAP, che è un'associazione senza fini di lucro ed è stata fondata da Marco Biagi nel 2000. Giulia, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Qual è, Giulia, la tua esperienza? Insomma, come si sta svolgendo questo tuo apprendistato? La mia esperienza innanzitutto è assolutamente positiva. Io sono un'apprendista di ricerca, come forse ancora troppo pochi ce ne sono in Italia. Si tratta infatti di un contratto poco diffuso, ma che incardina al suo interno un importante carattere di innovatività, in quanto consente a noi ragazzi di fare proprio ricerca e di misurarne gli effetti utili in contesti produttivi, e consente al contempo alle aziende di investire sulla formazione di giovani ricercatori. Mm-hmm. Quindi è un canale per introdurre innovazione all'interno delle aziende, per investire sul capitale umano, e quindi a doppio filo sia per la persona che ha la possibilità di fare questo tipo di esperienza che per l'azienda che in questo modo investe sull'innovazione e sulla sua crescita. Giulia, quanto dura questo tuo contratto? Allora, il mio contratto è di 3 anni ed è collegato ad un percorso formativo ed è il dottorato di ricerca, ma con il contratto di apprendistato di ricerca è innovativo in quanto può essere attuato anche a prescindere da un percorso di formazione formale, non è necessariamente collegato al conseguimento di un titolo di studio. Certo. Senti, Giulia, come te la cavi col tutor? Sei soddisfatta? Ti dedica le attenzioni che ti fanno crescere? Assolutamente sì, nel mio caso il rapporto con il tutor è proprio un rapporto tra maestro e allievo. Il mio tutor è anche il tutor accademico, se vogliamo così definirlo, ed è il professor Tiraboschi. In questo modo si crea, attraverso il contratto di apprendistato, un ponte tra la ricerca e il mondo sostanzialmente della ricerca, dell'accademia, per creare dialogo e opportunità di crescita per entrambi questi mondi. Quindi la mia esperienza è assolutamente, assolutamente positiva. Posso chiederti quanti anni hai, Giulia? Io ne ho 28. 28. Giulia, grazie molte. Naturalmente saluta da parte nostra, da parte di Cuore Denari e anche di Radio 24, il professore Tiraboschi, che naturalmente interviene anche molto spesso nel corso dei nostri programmi e ci aiuta a conoscere tutte le dinamiche del mondo del lavoro. Grazie, buona giornata. In bocca al lupo, grazie, Giulia. Ecco. Grazie. Tra l'altro, questa questione del tutor mi incuriosisce a livello contrattuale. Alessandro Rotaporta, quando tra un'azienda e un giovane si stipula un contratto di apprendistato, sul contratto di apprendistato deve essere indicato anche il nome del tutor che seguirà questo percorso professionalizzante, chiamiamolo così? Sì, il tutor deve essere indicato nel piano formativo e il tutor è quella figura che deve essere individuata sia nei compiti e sia nei requisiti che deve possedere da parte dei contratti collettivi nazionali, quindi sono i contratti che devono tracciare qual è la figura e la funzione del tutor, che poi ha un ruolo, può avere un ruolo di insegnamento, di supervisione, di controllo del percorso di apprendistato, e la mancata nomina del tutor o comunque il mancato rispetto delle indicazioni dei contratti nazionali in materia di tutor porta all'applicazione di sanzioni amministrative, quindi una figura importante proprio per l'esplicazione corretta del contratto, ma poi anche per il rispetto delle regole. Per mi spiega meglio in quale caso intervengono le sanzioni amministrative? Le sanzioni possono intervenire, ammesso che il contratto appunto disciplini la figura del tutor, possono intervenire sia se il tutor non è stato nominato, sia se il tutor non riveste i requisiti che il contratto collettivo nazionale ha delineato che il tutor deve possedere. Andiamo a sentire Silvia dalla provincia di Brescia, che ci racconta un po' la sua esperienza con il tutor. Silvia, buongiorno, benvenuta. Ciao, buongiorno. Ecco, la mia esperienza è un po' bruttina in questo momento, purtroppo, perché sono appunto inserita in uno studio fotografico molto importante, che per me era un sogno, vi lascio immaginare. Una volta arrivata là, in realtà si è creato un ambiente in cui non solo non si cerca di insegnare, ma anzi si critica e si cerca di non spiegare affatto, di tenersi un po' al lavoro tutto stretto. E quindi Silvia, tu ti senti un po' sfruttata, un po' messa in parcheggio? Secondo me sì, anche perché si spera sempre di crescere in queste situazioni. In realtà se ne esce a volte anche un po' così, addirittura frustrati. No, tra l'altro mi interessa anche capire se Silvia, non so se può farlo, Alessandro Rotaporta, denunciasse questa situazione, no? Visto che le sanzioni a carico delle aziende che non rispettano e non vanno ad ottemperare deve essere pronta a cercarsi un altro posto. Esatto, secondo è chiaro che uno non lo fa, però voglio dire, può segnalare a qualcuno? E poi per quale motivo un'azienda assume con un contratto di apprendistato, per chiaramente prendersi tutte le agevolazioni fiscali e contributive e quant'altro, se poi non deve rispettarlo? Ma sì, la logica non ha molto senso, proprio perché l'apprendistato, abbiamo visto gli esempi positivi di prima, anche di quell'apprendista che ha proprio portato la sua testimonianza, cioè serve proprio per inserire, per creare questo percorso di inserimento, di formazione, e quindi per avere poi alla fine del percorso in azienda una risorsa formata e che quindi può dare supporto in modo concreto. Quindi a parte questa considerazione, ma la sanzione, il testo unico del 2011 mette una sanzione molto, molto pesante, molto importante, nel senso che se il percorso formativo, così come è disciplinato dal contratto nazionale, e se dove sono attivati i percorsi per la parte formale da parte delle regioni, se questo percorso non è attuato e non è attuato per una responsabilità esclusivamente imputabile al datore di lavoro, non soltanto il contratto di apprendistato viene annullato e quindi l'azienda è tenuta a restituire tutti quei vantaggi in termini contributivi di cui ha goduto durante il periodo, ma viene applicata una sanzione pari al 100% di quegli importi, quindi una sanzione molto forte, e nel caso di un controllo di una accesso ispettivo o di una segnalazione del lavoratore alle, ad esempio alle direzioni territoriali del lavoro, che sono gli organi territoriali del Ministero del Lavoro, in caso di accertamento di questa mancata formazione e di una responsabilità diretta del datore di lavoro, la sanzione è molto pesante. Ma in sostanza, rotta porta, Silvia, le persone che come Silvia si trovano in un, con un contratto di apprendistato che non le soddisfa e hanno l'impressione di essere lì parcheggiate, anche un po' frustrate, lei che cosa suggerisce? Ma sicuramente in prima battuta bisognerebbe, cioè la cosa migliore forse è confrontarsi con il datore di lavoro e di chiedergli il perché ha realizzato questo tipo di contratto, perché poi alla fine il confronto diretto, penso che prima di avviare una fase di contenzioso, qui la parte dove la palla dovrebbe passare più ai sindacati che non alla mia, diciamo, alle mie valutazioni, ma qui bisogna, bisogna confrontarsi con chi ci è, con chi li assunti. Un po' come si dice, prendere il toro per le corna. Beh, certo. Deborah, vuoi che lega questi due messaggi che ci portano un po' nell'aspetto del, del tutoraggio di chi noi siamo stati maestri e chi è stato il nostro maestro o i nostri maestri nella vita. Ci scrive Jacopo: il mio tutor è stato mio padre. Essere gentile con gli altri non costa nulla e rende tantissimo. Questo è il suo insegnamento che porto con me a oltre 30 anni dalla sua scomparsa. Arrivano anche altri messaggi di ascoltatori che ci vogliono raccontare i maestri che hanno avuto, come Luigi, che ci scrive da Milano, ha 70 anni, ha avuto diversi tutor, tutti indimenticabili: Franco Gentilucci, scrittore e poeta, Francesco Campanile, falegname pugliese, Mario Luzzato Fegit, giornalista, direttore di Radio Regione, Rocco Ciclista della Stecca di Milano e ha fatto a sua volta il tutor a un sacco di giovani, restituendo, e questa mi piace molto questa parola, restituendo con gioia e disinteresse quanto ho imparato. Insomma, chi riceve poi spesso è più portato a dare, e di questo vogliamo anche parlare con voi all'800 24 00 24. E poi Barbara mi ha rubato un po' la domanda, Deborah, perché volevo chiederti, tanto che tu poi chiedi al tuo esperto tutte le informazioni del caso, è vero, si leggono a degli annunci con cercasi apprendisti con esperienza. È possibile, oppure un, come dire, un conflitto già nella stessa frase. Magari lo chiediamo ad Alessandro Rottaporta, perché se anche se sto da quest'altra parte l'orario lo vedo. Andiamo sulle strade italiane. Cuore e denari. Apprendistato è un contratto a causa mista, come si suol dire, formazione e lavoro, quindi la formazione ci deve essere. Noi abbiamo semplificato i percorsi per la definizione dei programmi di formazione, perché come erano scritti nella formulazione precedente erano troppo complicati, troppo burocratizzati, serviva molto tempo, servivano molte certificazioni e questo era un disincentivo alle imprese. Quindi manca anche l'apporto delle regioni. Ma alle regioni noi in questo caso abbiamo prodotto un meccanismo che credo sia virtuoso, perché dice in termini molto chiari che se la regione entro 45 giorni non fa quello che deve fare, a quel punto la preoccupazione che ha l'imprenditore di non essere a posto con le regole è risolta, perché avendo chiesto di avere il servizio dalla regione e non avendolo ottenuto, la responsabilità non è dell'imprenditore ma è della regione. Il ministro Giuliano Poletti, il ministro del welfare, questa mattina a Tutto Lavoro, al Sole 24 Ore, al microfono di Anna Marino. Alessandro Rottaporta, allora, ci spiega bene questo nodo delle regioni, di cui, come ricordava anche prima Nicoletta, le scrive questa mattina sulle pagine del Sole 24 Ore. Che cosa stanno esattamente ostacolando in questo momento? E che cosa vuol dire questo termine dei 45 giorni indicato dal ministro? Ma allora facciamo una precisazione, le regioni hanno diversi compiti a seconda delle tipologie di apprendistato, ci sono tre tipologie: apprendistato, diciamo, di primo livello per l'ingresso diciamo dalla scuola direttamente nel mondo del lavoro, l'apprendistato professionalizzante che è quello di comunemente detto di mestiere, e poi l'apprendistato di alta formazione e ricerca, che è quello che citava prima l'ascoltatrice, che era proprio un apprendista impiegato in questo progetto. L'intervento del decreto detto, Poletti sulla parte delle regioni interessa più che altro l'apprendistato professionalizzante. Cosa succede con questo decreto? Allora, siccome una parte di formazione, che è quella comunemente detta di base, cioè non quella specialistica ma quella trasversale, quindi comune un po' a tutti i percorsi di apprendistato, deve essere svolta dalle regioni a cui è affidato appunto l'erogazione di questa tipologia di formazione. E cosa succedeva prima? Che se le regioni non avevano attivato i corsi perché magari mancavano le risorse economiche e quindi questi corsi erano bloccati, c'era il timore da parte delle aziende che gli fosse imputata una responsabilità di non aver esperito questi componenti formative. Col decreto 34, come spiegava il ministro prima, se la regione entro 45 giorni dall'assunzione non comunica al datore di lavoro il calendario e la sede dei corsi, eventualmente coinvolgendolo, ma è un coinvolgimento eventuale perché il datore di lavoro può rifiutare, diciamo, di farsi carico direttamente di questa parte della formazione che dovrebbe essere di competenza della regione, non può essere, non è una responsabilità diretta alla mancanza di questo adempimento. Quindi, insomma, c'è un termine molto perentorio. C'è un però da aggiungere, perché, e questo l'ha spiegato anche il Ministero del Lavoro in diversi interventi, anche in una circolare dello scorso anno, se il contratto collettivo nazionale a cui è demandato comunque la regolazione del contratto di apprendistato disciplina comunque un obbligo formativo anche sulla formazione di base a carico del datore di lavoro, pur nelle more dell'attivazione da parte delle regioni, confligge con la regione. Questa comunque deve, cioè il datore di lavoro è comunque obbligato a farla, quindi bisogna stare molto attenti a valutare con attenzione quali sono le regole del contratto nazionale, perché comunque sia, se il contratto nazionale impone una formazione trasversale anche in assenza dei percorsi regionali, il datore di lavoro a quel punto lì la sua responsabilità è ampliata. Allora abbiamo Giampaolo che ci chiama dalla provincia di Ancona. Ci stiamo sempre più avvicinando, stiamo giocando nelle Marche oggi, sì. Diventiamo Radio Marche. Imprenditore, buongiorno. Buongiorno. Ci viene da dire, povere imprese, alla luce di tutti questi adempimenti che dovete soddisfare anche per insegnare un mestiere, Giampaolo? Ma è vero che sono parecchi, però l'importante è seguire la regola e farlo professionalmente. Certo. Quanti apprendisti nella sua azienda? Noi a questo momento ne abbiamo 5. Tre di cui finiscono quest'anno l'apprendistato, poi li assumiamo, già deciso. Bene. E due ne abbiamo assunti il 16 aprile col contratto di apprendistato. Quanto costa ad un imprenditore, non in termini proprio, come dire, economici, ma mettere a disposizione un tutor a favore appunto di un apprendista? Insomma, è un impiego di tempo molto oneroso per voi, Giampaolo? Allora, sicuramente è oneroso, però se uno lo pensa, che cioè pensa che questo discorso sia una cosa fatta bene, alla fine il costo te lo ritrovi negli anni successivi, perché noi abbiamo un'officina meccanica e la scuola purtroppo non insegna a lavorare nei turni, quindi ci dobbiamo fare tutto internamente. Se è fatto professionalmente, è fatto in un certo criterio, alla fine è un investimento futuro per l'azienda. Quindi noi la vediamo così, però non tutti sono del mio stesso, infatti, mio stesso parere, insomma, ecco. Giampaolo, c'è un messaggio che ci arriva, non è firmato. Dopo 4 anni di apprendistato sono stato lasciato a casa, ovviamente senza il diritto di disoccupazione, dopo di me è stato assunto uno stagista. Allora, voi che siete un po' esperti, è abbastanza frequente questa situazione? Può succedere per il discorso dei costi, purtroppo ci pesano parecchio sull'azienda. Oppure l'apprendista può anche non andare bene. Certo. Prego, scusi? No, dico, anche l'apprendista può non andare bene. Potrebbe anche non andare bene, sì. Bisognerebbe fare una scelta iniziale abbastanza oculata. Ma ce la fate? Fortunatamente non è capitato mai. Ce la fate? Ce la fate a fare? Ce la stiamo facendo perché ci facciamo aiutare da delle società esterne che ci trovano, diciamo, dei ragazzi abbastanza... Perlomeno noi diciamo bravi. Dopo l'insegnamento ce lo mettiamo noi, ecco. Giampaolo, grazie per la sua testimonianza. Quindi che vogliono imparare ad imparare. Volevo chiederti, Deborah, a me sembra però una cosa abbastanza complicata, cioè una cosa bella, questa dell'apprendistato, ma abbastanza Lo spirito è... E allora mi chiedo, ma positivo. Come sta andando negli altri paesi? Questi problemi li abbiamo solo noi, oppure guardando oltre il confine magari potremmo prendere, no, qualche spunto per fare andare la situazione un pochino meglio, ci per sono... renderla più fluida? Ci sono assolutamente delle buone prassi internazionali, no? Rota porta, mi pare che per esempio in Germania sia un contratto decisamente sfruttato questo. Sì, c'è un sistema che è il cosiddetto sistema duale del modello tedesco, che proprio collega direttamente la scuola al lavoro, e quindi già nel percorso di studi c'è un'alternanza tra ore di formazione scolastica e ore di lavoro, quindi in modo da proprio facilitare e raccordare in maniera agevole quello che è il percorso scolastico rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro. Abbiamo un esempio in Italia della provincia di Bolzano, dove questo l'apprendistato di primo livello Benissimo. È fatto funzionare in modo Ci dobbiamo fermare, abbiamo aggiornato la radio, ma torniamo dopo anche con un tutor d'eccezione, direi. Non diciamo nulla? No, non diciamo nulla. Sorpresona. A dopo il giornale radio. Cuore e denari. Allora, bentornati. Oggi il menù di Cuore e denari vi propone contratto di apprendistato. Certo. Ve gusta? 800 24 00 24. Parliamo di gusto, perché oggi abbiamo con noi un grandissimo ospite, sì, a cui Deborah e io ci teniamo in modo particolare. In modo particolare non solo perché siamo delle buone forchette e quindi lo ammiriamo molto da questo punto di vista, ma perché secondo noi ha tutte le caratteristiche per essere un bravissimo tutor. Che ne pensi? Sì, per raccontarci bene la relazione che si instaura tra tutor e apprendista. Certo. E bisogna essere stato apprendista per diventare esatto, un tutor, e soprattutto forse. Credo che per diventare molto bravi in un mestiere come quello di cui parleremo occorre anche avere naturalmente talento, ma soprattutto qualcuno che ti dica anche un po' di cose, no? E anche un po' il fisico. Andiamo a scoprire chi è. Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più rinomati a livello internazionale. 2 stelle Michelin, 3 forchette Gambero Rosso, 3 cappelli dell'Espresso. Dal suo tempio della ristorazione, la celebre Villa Crespi, è pronto ad andare in soccorso di ristoranti sull'orlo della crisi. Anche se questo potrebbe rivelarsi un vero incubo. Benvenuto ad Antonino Cannavacciuolo, buongiorno. Tutto bene? Noi tutto bene. Tutto bene, certo che se si presenta così agli apprendisti... cioè, qua il biglietto da visita non è il massimo, però non credo che sia così, no, Antonino? No, l'apprendistato, sentivo prima che ne parlavate, secondo me è una cosa fondamentale sia per chi lo pratica e per chi lo subisce, fra virgolette, no? Perché specialmente nel mio lavoro, è un lavoro all'inizio molto manuale, perché non pensi a niente, lavoro e basta. Per le aziende avere degli apprendistati è più facile, perché viene agevolato dalla tassazione che c'è in Italia. Certo. E ti viene più voglia di insegnare a una persona, perché ti costa di meno, c'è più voglia. Mentre se io con 200-300 euro, perché quella è la differenza più o meno, no, mi prendo una persona già più qualificata. Certo. C'è quel tassello là che tra l'apprendistato e un comicio, cioè uno a pieno regime, ballano quelle 200-300 euro. Però insomma, i vantaggi del contratto, diciamo, ma in no, ogni dico, caso... No, dico di prezzo, ma dalla parte nostra abbiamo la tassazione che l'apprendistato è il 15%, cioè è meno costoso. Allora uno dedica molto tempo all'apprendistato... Mm-hmm. E tira fuori questi ragazzi che poi dopo, io dico sempre, si parte dall'apprendistato e si arriva dove vuoi, impegnati. Sì. Scalino dopo scalino, no? Con molta... Quando c'ha un ragazzo valido se lo fa scappare. Antonino, mi scusi, ma lei ad occhio, quanto ci mette ad accorgersi che un apprendista è alla stoffa? Ma... si vede dai primi passi. dalla curiosità, dall'attenzione, che ti vuole anticipare. Ce lo vedi fuori classe, lo vedi quello là che con la seconda volta con lo sguardo già ti ha capito. Ma questo lo vedi pure veramente nelle persone di 15-16 anni, 17 anni, e ci sono persone che a 23 anni gli devi ripetere tutti i giorni la stessa cosa. E quindi lì non c'è contratto di apprendistato, no, che tenga, ancora prima di firmarlo direi il contratto, si vede. 4 anni fa un ragazzo ha iniziato con l'apprendistato, oggi dopo 4-5 anni mi sta facendo una mia attività lo chef. Mi ho detto tutti in 4 anni nemmeno. Certo. Antonino, invece il suo tutor chi è stato? Vabbè, io ho tutor proprio boom, cioè testa e muro, no? Ho preso un po' da tutte le parti, quello che mi ha dato la mazzata e dei consigli che oggi ancora mi riporto dietro e mi risento è stato mio padre, perché mio padre faceva parte di questo mondo ristorazione cuochi, e a 8 anni, 9 anni, 10 anni vedere passare tutte le mattine le giacche stirate davanti, poi lo corteggiavano molte persone, allora mi ha affascinato subito questo mondo. Poi c'ho avuto una nonna e una mamma che cucinano alla grande. E il gioco è fatto. È stato facile entrare per me. Insomma, ce l'ha nel sangue, una grande stoffa. Antonino, negli ultimi anni gli chef sono diventate delle star, no? E questo è un aspetto che ha sicuramente spinto molti ragazzi ad avvicinarci alla cucina. Insomma, diventare più apprendisti per gloria che per passione. Vogliamo dare un consiglio, anzi, vuole dare un consiglio magari ai genitori di ragazzi, perché sono magari a scuola, che vogliono avvicinarsi a questa professione? Raga, questo è un mestiere che poi io dico star oppure chef in televisione, alla fine se noi veramente contiamo gli chef in televisione sono 15, ma voglio esagerare 20, se pensiamo in Italia dalla Sicilia al Trentino, quanta ristorante e quanti alberghi e quanta cuochi ci sono, è una minima parte, una piccola percentuale, perciò non ci facciamo fregare da questo fenomeno che non c'è. Sì. Si parla molto, ma i cuochi sono pochi che stanno in televisione, ma si parla molto dei cuochi, ma non è che si parte, perché oggi l'Italia se ne sta accorgendo che noi abbiamo un patrimonio a livello di prodotti, a livello turistico, a livello ristorazione, e allora perciò se ne sta parlando. È venuta a mancare la fabbrica, è venuta a mancare i grandi stabilimenti dove davano posti di lavoro. Oggi secondo me nella ristorazione, nell'hotelleria ci sono molti posti di lavoro, è quello poi il mestiere che ti fa girare tutto il mondo. Perciò quello che voglio dire è oggi se ne parla, ma potrebbe essere una moda, insomma, ecco, certo, ovvio. Poi, però con un ragazzo che si avvicina perché ha visto o sente, cioè quello no, perché io dico questo mestiere veramente che è bello, bellissimo, lo devi amare, ma sono quegli amori litigarelli. Poi passione, con l'amore, cioè quella litigarella, l'amore più bello si dice, no? E questo è proprio il classico di nome fra cucina e cuoco. Noi io la arrivi la sera che sei distrutto e poi la mattina ti rialzi e non vedi l'ora di entrare in cucina. Cioè questa è una passione che ti la devi sentire, non fate questo mestiere perché avete visto, avete sentito, perché vi fate male. Questo è un mestiere, è un mestiere duro che bisogna fare con passione, rigore e impegno. È un mestiere che non ti perdona, un mestiere che se tu fai il cuoco per fare il cuoco oggi con i tempi che corrono a mille, cioè dopo 5 anni cambia, certo. Dopo cambia tutto, tu ti trovi a avere un curriculum brutto, un curriculum di basso livello, ti trovi a 40-45 anni che non trovi più posti di lavoro, perché se è stato eliminato un ragazzo di 30 anni, questo sta succedendo in Italia, ci sono cuochi a 40-50 anni che non sono andati ancora in pensione, che non hanno posti di lavoro, si devono accontentare della mensa, si devono accontentare della banchettistica, del catering, tutti i posti non sicuri, diciamo, no? Perciò io dico ai ragazzi, se fate questo lavoro fatelo bene, certo. per diventare bravo come Antonino Cannavacciuolo, esatto. Che ringraziamo, esatto, per essere stato con noi. Apprezziamo soprattutto, come dire, il commento molto pragmatico che ha fatto, altro che star della televisione. Noi siamo ben contenti che sia anche questo, però soprattutto il taglio molto sensibile rispetto alla realtà abbiamo particolarmente apprezzato. È un lavoro difficilissimo, e per chi sta fuori pensa che è un lavoro facilissimo. Perché noi ci sediamo con le gambe sotto il tavolo. Tutti i giorni apro un ristorante. Oggi al tuo nemico non gli devi augurare il male. Ma di aprire il ristorante. Grazie Antonino, buon lavoro. Grazie. 8:20, prima campana, e spegni quella sigaretta. Adesso usciamo dall'azienda e, come anticipato, entriamo un po' in quella quotidianità extra lavorativa in cui, anche se non ci sono contratti, ciascuno di noi di volta in volta è tutor e apprendista, perché si dice, no, Deborah, gli esami non finiscono mai, e se questo è vero anche che là dove qualcuno apprende c'è qualcuno che vi insegna. Noi abbiamo chiesto di raccontarci e di mandarci un sms al 349-238-6666 per dirci quando siete stati tutor e chi è stato il tutor per voi. Sono arrivati molti messaggi e molti sottolineano il ruolo importante dei genitori, della mamma, del papà, alcuni anche dei compagni di banco, come avevamo accennato, che secondo una ricerca sono proprio un tutor straordinario, proprio perché abbiamo, le ricerche dimostrano che l'educazione tra pari ha un ruolo importante nella crescita di ciascuno di noi. E in linea con noi abbiamo il nostro psicoterapeuta, medico e compagno della nostra domenica, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Ad imparare si impara, Alberto, ma se c'è qualcuno che ci insegna ad imparare, l'esperienza diventa più utile. Questo per dirti che vorrei che tu ci dicessi quali sono, se ci sono, dei consigli da dare all'apprendista e anche da dare al tutor per essere più efficace nel suo rapporto con l'apprendista. Ma direi che nell'apprendistato la cosa importante è che tu devi acquisire un saper fare, e quindi è proprio una competenza molto concreta. In qualche modo qualcuno ti deve mettere nelle mani un mestiere. Allora, il tutor, per essere un bravo trasmettitore di saper fare, oltre che naturalmente essere esperto nel suo mestiere, deve essere anche un portatore di grande saper essere, cioè deve avere carisma, deve essere una persona sufficientemente affascinante al quale ispirare non solo il proprio progetto di lavoro, ma in parte un po' anche il proprio progetto di vita. E questo lo abbiamo imparato, tra l'altro, tutti noi, spesso alla scuola media, inferiore o superiore. Cioè, ci sono stati degli insegnanti che, al di là della materia che insegnavano, diventavano proprio dei modelli di ispirazione. Sì. Ci sarebbe piaciuto diventare come loro. Ecco, quello è il tutor perfetto. È un tutor non centrato sulla trasmissione di un sapere, ma che ti mette nelle mani un saper fare, permettendoti di ispirarti al suo saper essere. Alberto, ci hai portato a scuola, ma stavo pensando che esperienze simili si possono vivere imparando nel campo sportivo, ad esempio. Il tutoraggi ci sono tra l'allenatore e il ragazzo che deve imparare, ad esempio, uno sport. Penso agli scout. Sì, e credo che di nuovo anche qua, allora, deve essere chiaro nella mente dell'allenatore, del tutor, che ci deve essere proprio un piano di lavoro, cioè un progetto educativo e formativo in cui la competenza dell'adulto e del tutor è proprio quello di saper tenere in mano tutte le variabili che potrebbero intervenire, quindi una grande competenza. È anche vero poi però che queste persone diventano proprio un po' allenatori di vita, cioè un allenatore che ti entra dentro non solo col suo programma di lavoro, ma un po' proprio col suo modo di essere, in qualche modo ti cambia la vita. Cioè, quello che racconta anche la ricerca poi è che molte di queste esperienze, se vuoi parascolastiche, che gli adolescenti fanno, cioè l'esperienza scout oppure l'esperienza sportiva oppure un centro di animazione, diventano davvero salvavita nel momento in cui lì c'è un adulto di riferimento che non ti insegna niente, ma stando a fianco a te in realtà ti permette poi di entrare nella vita dalla porta giusta. E al nostro fianco, nel senso che ci sta ascoltando, certo, è in linea con noi ancora il nostro esperto Alessandro Rotaporta, ma anche Paolo che ci chiama da Milano all'800240024. Buongiorno Paolo, benvenuto. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi. Io avevo una domanda molto semplice, cioè mi chiedevo se c'è un tetto minimo ed eventualmente un tetto massimo appunto per uno stipendio con contratto di apprendistato. Perfetto, insomma mi pare una domanda molto pertinente. Paolo, andiamo ad Alessandro Rotaporta. Anche questo aspetto fa parte dei termini della contrattazione, Rotaporta, o un imprenditore magari particolarmente soddisfatto del percorso di apprendistato può anche erogare qualcosa in più? Ma allora la norma dà dei confini, quindi un perimetro entro il quale sotto il quale non si può scendere. Infatti l'apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello che andrà ad acquisire al termine del periodo di formazione, quindi quando verrà qualificato. Detto questo, i contratti poi stabiliscono la retribuzione entro questi limiti a livello percentualizzato in proporzione all'anzianità che l'apprendista va ad acquisire dall'assunzione in avanti, per arrivare poi al 100% della paga del qualificato, oppure in termini di livello. Volendo, il datore di lavoro nulla gli vieta, in costanza del periodo di formazione, di erogare eventualmente dei trattamenti più elevati rispetto a quello che dice il contratto, quindi come condizione di miglior favore. E invece il lavoro di tutoraggio non viene remunerato con una quota aggiuntiva di stipendio, Rotaporta? No, non è prevista, perché diciamo che il personale qualificato, tra i suoi compiti, in quel caso lì gli viene attribuito anche quello di seguire di fare questa supervisione all'apprendista. Leggerei il messaggio di Paolo da Torino che ci scrive: ho un piccolo ufficio di servizi con 5 impiegati, per me che non ho moduli di orientamento, procedure standard, ma devo insegnare il lavoro passo a passo, il contratto di apprendistato non conviene molto, in quanto oltre al nuovo stipendio devo affiancare un impiegato che insegni il mestiere, rallentando quindi il proprio lavoro. E Paolo conclude: ne paghi 2 per il lavoro di 1. Rotaporta, è una visione un po' ristretta, ma, o comunque queste difficoltà oggettive ci sono? Ma nelle piccole realtà sicuramente è più complicato, però l'apprendistato dà dei vantaggi molto importanti anche proprio a livello economico, quindi sono dei vantaggi che non sono da poco. Ci sono dei vantaggi anche in termini normativi, quindi non li abbiamo citati perché sono un po' più tecnici, ma è un contratto dove i vantaggi sono veramente elevati, anche fermandoci puramente al piano dei costi, quindi vale la pena. E poi soprattutto mi è piaciuta l'impostazione che avete dato questa mattina, perché bisogna un po' svincolarsi dalle difficoltà e dalle complicazioni normative o contrattuali, perché deve essere visto veramente come un investimento, sia dalla parte del lavoratore che deve imparare e quindi seguire un percorso, sia dalla parte del datore di lavoro. Gli imprenditori che avete intervistato prima, dove dicevano questo sforzo è poi ripagato negli anni a venire, quindi in questa logica va visto l'apprendistato, e gli incentivi non mancano. Su questo bisogna essere onesti. Alberto, abbiamo meno di un minuto e vorrei riprendere proprio il messaggio, il commento di Alessandro Rotaporta. L'apprendista e anche l'azienda, il tutor in questo caso, devono vivere questo momento come un investimento, come un'opportunità. Ciascuno di noi continua a investire su di sé e sugli altri nel corso della vita. Alberto? Sì, io direi che poi il concetto forse su cui bisogna riflettere è che chiaramente è un passaggio faticoso. È faticoso per l'apprendista, è faticoso per il tutor, ma se ci si concentra troppo o soltanto sulla fatica, l'apprendista andrà incontro a un fallimento, perché in realtà sentirà solo la parte del dovere e non del piacere. Allo stesso tempo il datore di lavoro vedrà nel suo apprendista un soggetto che lui deve fare la fatica di formare, e invece non un soggetto che sarà una grande risorsa nella sua struttura una volta che è stato formato. Quindi è un paradigma, è un modello che possiamo utilizzare anche fuori dall'azienda. Grazie. Grazie ad Alberto Pellai e ad Alessandro Rotaporta, grazie molte, buona giornata. Abbiamo terminato? Sì, siamo in chiusura. Noi torniamo domani, quindi grazie a Laura Vanossi, a Camilla Tomadini in assistenza, Marco Lombardo torna domani, c'è Carmelo Lauricella in assistenza tecnica. Grazie a tutti, a domani, buona giornata.